Anche se vince un russo e conquista la maglia rosa, parlare di rivoluzione al Giro d'Italia è un po' troppo. Diciamo che quello di Denis Menchov è un rimpasto che ridisegna la classifica e dà una nuova fotografia ai valori in campo. Il suo successo è netto, però Di Luca si difende coi denti, conservando il secondo posto a una trentina di secondi di distacco, che non sono un abisso, tenendo conto che in almeno tre tappe, Monte Petrano, Blockhaus e Vesuvio, l'abruzzese può tornare alla carica. Il terzo in pole position è Leipheimer, anche lui in un fazzoletto di 40 secondi. Infine la coppia che scoppia, Basso Pellizzotti. Ieri Basso ha perso un'altra occasione e scivola a 3 minuti. Non è fuori dai giochi, ma quasi. Pellizzotti è più pimpante, promette battaglia, ma dà meno affidamento in prospettiva finale. Più che una rivoluzione, questa è ancora una roulette, russa naturalmente. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.